alcune annotazioni sparse su i media, meglio ancora i social media, o quella catena social che io, invertendo l'espressione ultranota di Leopardi, social catena, tendo in qualche maniera sempre a mettere ai margini di quello che secondo me invece è il discorso principale, cioè il discorso dell'uscita dal frame generalista. L'uscita dal frame generalista, questa parola, questa espressione particolarmente barocca, vuole indicare tutto ciò che porta all'esterno delle, diciamo delle measure della comunicazione. E quindi anche, e questo possiamo, diciamo, calare nell'ambito del letterario, al di fuori di quella set di materiali preorganizzati da quelli che Carmelo Bene chiamava passionisti della comunicativa, che per tanti aspetti governano ancora quello che, il residuo di quello che appunto si può chiamare contesto letterario, che alla fin fine può essere anche tranquillamente definito ormai contesto distributivo, con una barra che indica tutto sommato ancora con qualche liceità l'espressione editoriale, l'aggettivo editoriale, quindi distributivo editoriale. Queste annotazioni iniziano da un elemento, l'enormità anche temporale dei 2 anni di genocidio a Gaza, definito tale già insomma, nell'immediato, tra ottobre e novembre si parlava di genocidio. Improvvisamente i social media che la catena social che inizialmente veniva spezzata in continuazione, frammentata dai padroni appunto del detto vapore in più punti per poter evitare di vedere in faccia l'orrore, improvvisamente questa catena si vede rilanciata come luogo dove effettivamente le cose del genocidio vengono trasmesse, vengono replicate, vengono comunicate e tutti più o meno si indignano. Ora, a Gaza le persone usavano principalmente Instagram e X per poter documentare quello che stava succedendo. Nei momenti in cui la rete offriva il suo sostegno e l'elettricità lo permetteva e quindi i cellulari erano carichi, poi caricavano di volta in volta i video. E le persone in questo modo e quasi soltanto in questo modo sono riuscite ad avere contezza di quello che succedeva. Questo durante 2 anni in cui quotidianamente le persone sono state bombardate, uccise, bruciate vive, colpite dai cecchini, spostate da una parte all'altra della striscia e sostanzialmente messe in condizioni di non esistere in quanto gruppo etnico, in quanto esseri umani. Quindi insomma, parliamo di crimini contro l'umanità e di genocidio. Quindi il discorso occidentale nostro legato ai social media, alla catena social, è un discorso che giustamente, metterò un link in coda a questo mio intervento audio, si interrogava del tutto, in maniera del tutto pertinente e sensata su stare o non stare su X, su Facebook, su Instagram, su YouTube, per motivi legati alle proprietà che di volta in volta cambiavano. Musk, proprietario di X, l'abbattimento dei filtri sulle fake news proprio su X Twitter, eccetera. Quindi da una parte era sacrosanto e giusto interrogarsi su questo, dall'altra era inevitabile. Per avere notizie, informazioni, aggiornamenti e per poterli diffondere, a prescindere del tutto dal fatto che a diffonderlo fosse questo o quel canale, personale, voglio dire, non era un discorso legato appunto all'identità di chi diffondeva. Ecco, da un'altra parte appunto c'era questa, si è verificata questa abbastanza inedita e, devo dire, fortunosa, positiva opportunità per cui una quantità impressionante di informazioni e materiali è filtrata attraverso le censure, le menzogne del sionismo organizzato, la sbara, eccetera. Una quantità enorme di materiali informativi è filtrata all'esterno. Se c'è stata una mobilitazione mondiale, si deve in buonissima parte, in grandissima parte a questo, oltre che ai ormai oltre 240 giornalisti palestinesi vittime del fuoco israeliano, appunto alle testimonianze, però anche queste spessissimo, quasi esclusivamente direi, trasmesse attraverso i social, dei medici, anche loro sottoposti a un vero e proprio massacro, si parla di centinaia e centinaia di vittime, di martiri, effettivamente. Ora, tutto questo ci pone davanti a una riflessione che forse sposta un attimo la nostra attenzione davanti al discorso letterario. Ho come l'impressione che diciamo, mettere a fuoco l'aspetto letterario, culturale, artistico, che è inevitabile, è indispensabile, in qualche maniera va incastrato nel discorso generale, sia per alcune modalità, forse nostre di pensiero, questo me lo sto domandando, secondario rispetto a un altro tipo di domanda. Se Adorno si domandava se era ancora possibile la poesia dopo Auschwitz, la domanda che io sento probabilmente più urgente in questo momento, non è se è più possibile la poesia dopo Gaza o la letteratura dopo Gaza, parliamone, va benissimo, ma che cosa è dei social, che cosa è delle modalità di comunicazione e della nostra fuga dalle modalità generaliste dopo, durante e dopo Gaza. Perché se da una parte è vero che la proprietà generalista ha incardinato a regole ferree, a shadow banning e a cancellazione di account, distruzione di prove vere e proprie, in alcuni ambiti, Facebook in questo si è dimostrato il social peggiore, insieme forse a, non so, forse Threads, ma è relativamente recente, quindi questo bisognerebbe un po' indagare. Ma X e Instagram sono veramente stati il luogo dove, ma anche YouTube per alcuni aspetti, tranne in alcuni casi di censura, sono stati luoghi dove effettivamente si è potuto interrompere il flusso. Perché se è vero che il flusso ha comunicato e in qualche maniera anche diciamo, instradato lo sguardo dell'occidentale su qualcosa che l'occidentale aveva negli ultimi 75 anni un po' messo da parte, dall'altra è vero che questo incanalamento è stato un incanalamento distruttivo. Non perdiamo di vista il fatto che la percezione del genocidio come è adesso, 2025 agosto, è una percezione estremamente diversa diciamo, nella coscienza di molti intellettuali rispetto alla percezione che se ne aveva o che ne aveva la maggioranza degli intellettuali per dire novembre 2023. E la lentezza del cambiamento di questa percezione ha portato con sé due realtà, o più realtà, ma insomma adesso voglio parlare di due. Una è il fatto che in qualche maniera, per quanto lenta, comunque la questione è arrivata a occupare tutte le superfici della comunicazione e quindi a rendersi inaggirabile e a sostanzialmente disinnescare il meccanismo propagandistico sionista. Dall'altra ha dato l'impressione che proprio in quanto diventato discorso dominante o tra i discorsi dominanti fosse in qualche modo, in qualche maniera, neutralizzato. La mia idea è che dal punto di vista dell'efficacia politico e anche sociale, questa entrata nel flusso non sia una entrata indolore per i padroni del flusso stesso, e per ovviamente l'entourage sionista genocida. Questo dal punto di vista dello stop alle bombe non ha sortito granché effetto, e questo lo sappiamo, lo dobbiamo a dei governi che, votati tra virgolette democraticamente da un Occidente che sappiamo come è configurato, non muovono un passo. salvo piccole iniziative di carattere più che altro pubblicitario e piccole menzogne, eccetera. Mentre dal punto di vista della risposta pratica, cioè se una diverse decine, una quarantina di navi si muovono per andare a portare degli aiuti a Gaza, probabilmente lo dobbiamo a questo tipo di movimento, a questo tipo di ingaggio microstrutturalmente distruttivo del flusso. Perché se flusso c'è, si tratta di qualcosa che riesce attraverso le interruzioni dello stesso, cioè quei video o atroci in cui tu vedi un proiettile all'interno della testa di un bambino di 6 anni, oppure vedi la ricostruzione della vicenda di Hind Rajab. Questo tipo di realtà, il flusso lo taglia, lo spezzetta. Lo mette in contraddizione e crea quello scalino di sofferenza, di condivisione della sofferenza altrui, che chiaramente non è possibile in toto, ma che permette alle persone di fare quel passo che 20 anni di puro gioco con internet non forse ci facevano pensare più realizzabile. Quindi, la lentezza della percezione, la lentezza del movimento di cambiamento della percezione del genocidio ci fa forse pensare che in qualche maniera questo sia stato normalizzato, ma a me sembra che proprio in questo punto apicale, in cui praticamente siamo sulla soglia della deportazione, esista una specie di click che si è attivato al di là e al di sopra e al di fuori anche delle modalità di protesta consuete, che sono quelle della manifestazione di piazza, dei cortei, delle azioni dimostrative, dei sit-in, eccetera. E questo a me sembra uno dei risultati oggettivi, effettivi di un'attività di sabotaggio del flusso all'interno del flusso. Che questo sia avvenuto attraverso Instagram e X è paradossale perché sappiamo benissimo a chi appartengono entrambi, però è anche vero che abbiamo anche scoperto una cosa che in realtà sapevamo già, che cioè la enormità, la in incredibile vastità degli spazi di internet, milioni e milioni di account esistenti, proprio per un banale fatto quantitativo, più di tanto non possono essere normati. E quindi, non per paradosso, ma per un fatto forse addirittura matematico, c'è un elemento di militanza che si attiva, che riesce a filtrare attraverso i filtri, appunto, a filtrare attraverso i filtri, a filtrare attraverso le reti della rete, che appunto i padroni di quella, o i presunti sedicenti padroni della rete non potevano sospettare. Tutto questo ancora prima di ragionare sul discorso delle esche, degli ami che possono essere lanciati attraverso i media generalisti per portare fuori dai media generalisti. Ma questo è un discorso che appunto affronta il piccolo post di cui do il link qui in calce. Altra cosa, altro elemento molto, secondo me, importante è la necessità della testimonianza. Per quanto questa vada a inserirsi all'interno di discorsi di flusso, nello stesso tempo dobbiamo dire che la richiesta di uso, di testimonianza, di diffusione di interviste, di dati, di informazioni, di immagini, di foto, di documenti, di relazioni, di annotazioni dei medici, di resoconti e referti medici, referti giuridici, perizie legali, eccetera, la richiesta di diffusione di questi materiali viene dagli stessi abitanti della striscia. In questo momento sto inevitabilmente, diciamo, centrando tutto su Gaza, ma ovviamente tutto ciò riguarda anche Cisgiordania e Gerusalemme Est e se non altro anche almeno in parte Libano, Yemen. Ora, Iran, tutto questo va considerato, cioè non possiamo pensare che se una vittima lancia un'immagine attraverso le reti del campo di concentramento, noi che la prendiamo dobbiamo esimerci dal diffonderla perché questo, con tutti i mezzi necessari, perché questo viene da noi occidentali. È proprio il momento di imparare la lingua dell'altro e farsi tramite del linguaggio della richiesta dell'altro. In questo, ripeto, i social hanno funzionato come dovevano, come in fondo forse nessuno, io per primo, se l'aspettava. Quindi da una parte è ancora vero che l'espressione catena social, che un po' gioca, irride, rovescia, l'idea della social catena, in verità gli è più legata di quanto ci aspettassimo, cioè in qualche maniera continua a essere questa catena social continua a essere un luogo che è importante problematizzare, ma che è importante anche non sprecare, come suggerisce e invita a fare Antonio Pavolini. È importante mettere nelle condizioni di contraddizione, laddove la contraddizione è utile a una determinata causa, quindi interruzione del flusso, disturbo, glitch, inteso in un certo modo, ovviamente. Ora, tutto questo mio discorso è centrato esclusivamente su Gaza. In questo momento non ho messo nero su bianco né voce su MP3. Alcuna riflessione sulla letteratura. Quei 2 o 3 audio o brevissimi testi che ho pubblicato sul mio sito, quindi scritto sullo forward, all'altezza del, penso principalmente novembre, dicembre, gennaio, a cavallo tra 2023 e 2024, erano semplicemente una sorta di stupefazione nei confronti del fatto che continuavamo, era impossibile fare altrimenti, dover interrompere la cosa che era più importante, che era appunto la comunicazione del disastro che stava accadendo, del genocidio in atto, per gioco forza segnalare un libro che usciva. Un libro anche magari importante, potente, capace allegoricamente di alludere a tutta una serie di fenomeni che riguardano la nostra vita mentale, osservazioni importanti, centrali per anche politicamente affrontare la nostra vita occidentale e non minacciata dai droni, però allo stesso tempo dovendo considerare questo come una frontale contraddizione nei confronti di quello che appunto era, io penso che per molti sia stato percepito come il dovere principale, che era quello di comunicare quello che stava succedendo. Adesso, a distanza di 2 anni, improvvisamente c'è tutto un contesto politico, sociale, culturale, mediatico che interviene. E questo è estremamente positivo. A me non interessa che non siano intervenuti prima o non come sarebbe stato necessario proprio per rispondere a quell'appello dei Gazawi. Però è importante che l'azione continui e il fatto, notizia di oggi, che ci siano che l'Egitto stia ammassando truppe al confine e che la Giordania abbia riattivato, anche se soltanto per 6.000 unità, la leva obbligatoria, è un segnale estremamente forte che, ripeto, io non so se sarebbe stato di questa entità, forse sarebbe stato di entità maggiore e forse avrebbe spinto a una guerra sanguinosa immediata con magari acquisto di terra ulteriore da parte di Israele in un tempo in cui non fosse stata presente la mediazione della comunicazione non ufficiale, della comunicazione attraverso social. Questo audio è particolarmente lungo e quindi suggerisco alle persone di ascoltarlo a velocità accelerata e credo che sarà soltanto una prima riflessione in vista di altre di altri.